La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bicondo. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 11 luglio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi per tutti gli appassionati di pensiero scientifico e pensiero razionale, udite udite, parleremo proprio di pensiero scientifico e pensiero razionale. E ne parleremo col professor Massimo Pigliucci, professore di filosofia presso la City University di New York. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Massimo, allora con te cercheremo di esplorare il pensiero scientifico e il pensiero razionale, che è un'operazione abbastanza ardua. Ma in 100 parole ti vorrei chiedere, che cos'è secondo te il pensiero scientifico? Bella domanda. Il pensiero scientifico è un modo di affrontare problemi riguardanti la comprensione della natura, che si è sviluppato in realtà nel corso di millenni. Può essere si è originato praticamente con alcuni dei filosofi greci, specialmente Aristotele. Non è diventato scienza fino al XVII-XVIII secolo, con figure come Galileo, Newton e così via. E quindi è un modo di affrontare di porre domande riguardo alla natura che si è evoluto nel corso dei millenni e che chiaramente oggi è diventata una professione. Durante il XX secolo, specialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, è diventata una professione con tanto di professori in accademia, con tanto di fondi e finanziamenti dal punto di vista che vengono dati da governi, eccetera, eccetera. Quindi adesso è un'operazione grande, ma come modo di pensare si è originato praticamente nella Grecia antica e si è evoluto piano piano. Ci sono stati degli elementi che sono stati aggiunti poco alla volta. Per esempio Aristotele era molto bravo a fare delle osservazioni sulla natura, era il primo fisico, è stato il primo biologo, però non faceva esperimenti, per esempio. L'idea di aggiungere la parte sperimentale alla scienza è venuta molto dopo, con Francis Bacon, per esempio, e poi con Galileo e Newton. Massimo, ti interrompo, così ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo davvero con la trasmissione. Massimo, allora siamo tornati in studio, quindi cominciamo davvero a parlare degli argomenti della trasmissione. La prima cosa che ti voglio chiedere, prima di tutto, tu hai un blog sul portale Scientific Blogging. Allora, il blog che tu hai è un blog che parla di pensiero scientifico e pensiero razionale, il motivo per cui ti ho chiamato per parlare proprio di questi argomenti. Vorresti ricordare prima di tutto qual è il tuo indirizzo e perché è partito questo blog? Il blog si trova all'indirizzo rationallyspeaking.org. Rationally speaking, appunto, parlando razionalmente. E l'idea del blog, ho cominciato il blog due anni e mezzo fa circa, ma prima di quello pubblicavo una serie di saggi su internet praticamente allo stesso indirizzo, quindi prima che si parlasse in realtà di blog. Ho cominciato a fare questo tipo di operazioni, diciamo, di scrivere per il pubblico, chiaramente il pubblico anglosassone principalmente, perché il blog è scritto in inglese, diversi anni fa, e l'idea è uscita fuori perché qualche anno fa sono stato assunto all'Università del Tennessee, che si trova nel sud degli Stati Uniti, e come professore di biologia evoluzionistica. E appena arrivato all'Università del Tennessee, qualche mese dopo, la legislatura statale lì del Tennessee cercò di passare una legge che diminuiva l'insegnamento dell'evoluzione nelle scuole superiori in Tennessee. E la cosa mi colpì come estremamente bizzarra, come una cosa che non poteva verificarsi all'inizio del XXI secolo, e che era una cosa molto, molto strana. In realtà poi mi resi conto che l'Università del Tennessee si trova soltanto a 40-50 miglia di distanza, quindi pochi chilometri di distanza, da Dayton in Tennessee, che è dove si tenne nel 1925 il famoso processo contro John Scope, che fu il primo processo contro l'insegnamento dell'evoluzione. Quindi questa cosa che mi trovavo all'inizio del XXI secolo in un paese modernissimo, dove la scienza e la tecnologia regolano la vita quotidiana dei cittadini americani, e però allo stesso tempo la metà dei cittadini americani non crede che l'evoluzione si sia verificata, e pensano che la Terra sia soltanto originata soltanto alcune migliaia di anni fa. Mi sembrava una cosa veramente strana, e come scienziato pensavo il mio dovere è non soltanto quello di fare ricerca, non soltanto quello di insegnare a livello universitario, ma anche quello di cominciare a scrivere e a parlare in pubblico da un punto di vista più razionale, un punto di vista più scientifico, più logico. Massimo, come tu sai, è stata dedicata un'intera puntata dei Simpson proprio a questo argomento, in cui Lisa cercava di spiegare ai propri compagni e al popolo di Springfield come mai il pensiero darwiniano fosse un pensiero normale, reale e scientifico, e invece il pensiero dell'evoluzione intelligente o del disegno intelligente fosse un pensiero antiscientifico. Quindi diciamo che è stato un dibattito che si è acceso moltissimo negli Stati Uniti e si è espanso in tutto il mondo. Tanto si è espanso in tutto il mondo che addirittura è arrivato in Italia, e qualche anno fa, non più di qualche anno fa, addirittura il nostro ministro dell'istruzione, la dottoressa Moratti, aveva addirittura tolto l'insegnamento dell'evoluzionismo di Darwin dalle scuole, ed è stato un gran problema, perché sembrava come se il nostro paese fosse balzato indietro di quasi 100 anni, quasi alle soglie dell'anniversario di Darwin, che peraltro si festeggia quest'anno. Se tu potessi definire l'intelligent design, come lo definiresti? Ma l'intelligent design è un'idea che anche quella va a ritrovarsi nelle sue origini di nuovo ai greci antichi, in questo caso a Platone. Ed è molto semplicemente è l'idea che, siccome non abbiamo una spiegazione, all'epoca specialmente, 24 secoli fa, non avevamo una spiegazione decente per come l'universo potesse esistere da un punto di vista scientifico, da un punto di vista razionale, e allora l'unica cosa che saltava in mente alla gente era di dire: bah, forse c'è stato qualche dio qualche essere soprannaturale che in qualche maniera ha messo insieme il mondo. L'idea di Platone non era poi, all'epoca, non era poi neanche tanto bizzarra. Infatti Platone si rese anche conto che l'universo non è esattamente perfetto, non è esattamente questo posto meraviglioso, ci sono un sacco di cose che potrebbero funzionare meglio, e lui decise per cui che il dio che l'aveva creato, che aveva creato l'universo, lo chiamava il Demiurgo, era questo dio minore che praticamente, insomma, aveva preso gli elementi, le cose che aveva a disposizione, e aveva fatto questo mondo nel modo migliore possibile, ma sicuramente non era un dio perfetto, non era un mondo perfetto. Come tu ben sai, chiaramente, qualche secolo dopo la tradizione cristiana subentrò e cominciò l'idea dell'intelligent design, che ha portato poi alla versione moderna, e quindi si parla del Dio in tradizione cristiana, quindi un Dio che è onnipotente, onnipresente, eccetera, e che ha creato l'universo. Ora, l'ultima volta storicamente che l'idea del disegno intelligente diciamo, era accettabile da un punto di vista filosofico, se non scientifico, fu all'inizio del XIX secolo, quando il teologo e naturalista William Paley pubblica un libro molto importante, appunto, sulla quella che all'epoca si chiamava teologia naturale. E Paley fece per esempio, per spiegare la sua idea, spiegò ai suoi lettori: immaginate che voi state passeggiando per una spiaggia e vedete delle rocce a terra, non vi preoccupate molto, perché chiaramente le rocce sono un processo sono risultati di processi naturali. Però, disse Paley, se invece delle rocce trovate un orologio, e chiaramente immediatamente non pensate a un processo naturale, pensate a un disegnatore intelligente, pensate a qualcuno l'abbia fatto, ha fatto questo orologio. E con questa analogia, Paley disse, gli organismi viventi sono la stessa cosa, non sono risultato di un processo naturale, sono il risultato di un processo intelligente. Ora, l'idea all'epoca poteva ancora essere accettabile, benché il filosofo David Hume aveva già demolito questo tipo di argomenti alcuni decenni prima che Paley pubblicasse il suo libro. Ma qualche decennio dopo Paley, nel 1859, fu pubblicata L'origine delle specie di Darwin, che, come hai detto tu qualche minuto fa, quest'anno è il 150° anniversario della pubblicazione di quel libro. Darwin era cosciente dell'argomento del disegno intelligente, sapeva di Paley, e infatti dedicò un intero capitolo dell'origine delle specie a spiegare per quale motivo la sua idea dell'evoluzione per selezione naturale praticamente demoliva decisamente e definitivamente l'idea dell'intelligenza dell'intelligent design. E la conclusione di Darwin è molto semplice ed è stata accettata dalla scienza fin dalla pubblicazione dell'origine delle specie. E la conclusione è semplicemente che adesso abbiamo, la scienza ha una spiegazione per come si possa originare la complessità biologica, e la spiegazione è appunto il processo di evoluzione per selezione naturale scoperto da Darwin. Massimo, se è interessante quello che hai appena detto, è anche interessante capire come mai il pubblico si interessi molto di argomenti non scientifici per dare spiegazioni che abbiano una parvenza di razionalità. Questa è una domanda alla quale non mi sono mai dato una risposta. Tu riusciresti a dare una risposta? Cioè, come mai la gente è così propensa di gettarsi mani e piedi nelle braccia di qualche pseudoscienziato che dà delle risposte con idee che si richiamano, diciamo, all'irrazionale? Certo, perché l'irrazionale è molto più facile dal razionale. La scienza, specialmente la scienza moderna, è un'operazione complessa, ed è un'operazione che è difficile da capire. Per capire la meccanica quantistica o per capire l'evoluzione biologica, uno deve avere deve passare parecchio tempo a leggersi parecchie cose per riuscire a capire quali siano queste idee scientifiche, da dove vengano e su cosa siano basate. Quindi è molto più difficile, diciamo, scegliere la strada razionale che quella irrazionale. Ma quella è solo parte della risposta, secondo me. Recentemente la psicologia e le scienze cognitive in generale hanno cominciato a fare ricerca sull'intera questione della religione e sulla questione della superstizione, che poi è ancora più alla base del discorso che stiamo facendo, che la religione chiaramente è una forma organizzata di superstizione. La domanda reale è: per quale motivo noi siamo così superstiziosi, per quale motivo gli esseri umani sono così superstiziosi? E una delle cose che è saltata fuori da ricerca molto recente, per esempio, è che c'è una connessione diretta tra il fatto che un essere umano si senta stressato, in particolare si senta incapacitato a controllare una situazione, e lo sviluppo di comportamenti superstiziosi. Quindi adesso abbiamo dei dati sperimentali in psicologia che dimostrano che più la gente è stressata, più la gente sente che non ha controllo sulla situazione della propria vita, più si getta sulla superstizione. Perché? Perché la superstizione, anche se poi in realtà alla lunga non funziona, perché uno può credere quello che vuoi, perché se non funziona poi certe cose non funzionano, però nel momento in cui uno crede a certe cose, e non parlo soltanto di religione, parlo anche di astrologia, parlo anche di numerologia, parlo anche di credenze nel paranormale, eccetera. Tutte queste credenze, anche se in realtà a lunga scadenza non fanno nessuna differenza, perché gli oroscopi non funzionano, la gente non riesce a leggere il futuro, la gente non riesce a leggere il pensiero degli altri, eccetera, eccetera, quindi alla lunga comunque queste tecniche, diciamo così, non funzionano. Però nel momento immediato danno questo senso di controllo che riescono a riguadagnare su un universo che tutto sommato è completamente indifferente ai desideri umani. Quindi questa sembra essere una delle ragioni fondamentali per cui la superstizione è, diciamo così, basilare all'essere umano. Massimo, abbiamo messo molta carne al fuoco, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo di nuovo con la trasmissione e parleremo dell'argomento degli argomenti, non sfuggiamo, parleremo di religione. Massimo, se andiamo in America o se andiamo in Inghilterra, esistono dei siti, dei punti di riferimento che sono lo Skeptics Forum, cioè degli appassionati di pensiero razionale, pensiero scientifico, che si battono contro l'irrazionalità della nostra società. Questa cosa è molto sviluppata anche qui nei paesi anglosassoni, ma poco sviluppata in Italia. La prima domanda che ti voglio fare nel secondo blocco è: secondo te come mai al di fuori dell'Italia questo è un pensiero che ha un certo peso, mentre in Italia sembra quasi essere una macchietta riservata a un piccolo pubblico che sarebbe quello degli scienziati? Di nuovo, bella domanda. Io posso darti la mia opinione personale su questo. Credo che si tratti di un ottimo campo di ricerca nella sociologia comparata, diciamo. Secondo me non è solo l'Italia, però. Secondo me la distinzione fondamentale è tra paesi europei continentali, specialmente paesi del sud dell'Europa, da una parte, e paesi anglosassoni dall'altra. Cioè io metterei l'Inghilterra e gli Stati Uniti da una parte e per esempio l'Italia, la Francia, la Spagna dall'altra. Chiaramente ci sono delle differenze regionali, tanto per cominciare, non solo l'Italia, la situazione della scienza in Italia è diversa da quella che è in Spagna o in Francia, ma è anche vero che ci sono delle differenze abbastanza rilevanti tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Però in generale credo che questi siano i due blocchi principali, e le ragioni sono complesse, ma sicuramente una delle ragioni fondamentali è che nell'arco degli ultimi, l'ultimo secolo e mezzo, diciamo, forse anche un pochino di più, c'è stato un'enfasi sulla filosofia razionale, sulla scienza, che ha preso piede nei paesi anglosassoni, e un'enfasi sulle discipline più umanistiche, che ha preso piede invece in Italia, in Francia, in Spagna e in altri paesi europei. Il perché è una cosa interessante, che ripeto, secondo me è un discorso per sia per sociologi che per storici della cultura europea. Forse la Chiesa Cattolica ha qualcosa a dire qualcosa al riguardo. Tutti siamo a conoscenza dell'affare Galileo, eccetera, ma non è che sia stata solo una questione di Galileo. Dobbiamo ricordarci che negli ultimi 3 o 4 secoli la Chiesa Cattolica ha avuto non solo un'influenza fondamentale sulla cultura italiana e, diciamo, europea continentale, ma ha anche parte di quell'influenza è stata che gente come René Descartes, per esempio, che era contemporaneo Cartesio, che era contemporaneo di Galileo, se ne scappava dai paesi cattolici e stava molto attento a quello che scriveva, perché sapeva che le cose non sarebbero andate poi tanto bene se avesse scritto certe cose o pubblicato certe cose in paesi sotto il controllo cattolico. Quindi secondo me la religione cattolica ha avuto un'influenza, no? Non è interamente una questione di religione cattolica, però è anche vero che la differenza fondamentale tra i paesi che ho elencato prima, diciamo del blocco continentale europeo, e i paesi anglosassoni è appunto il fatto che nei paesi anglosassoni non c'è una forte religione centrale. Ci sono parecchie denominazioni protestanti, ma non c'è una forte religione centrale. Quindi secondo me questa in parte è la risposta, però in realtà la situazione è molto più complicata che semplicemente diciamo che una semplice contrapposizione tra i paesi anglosassoni e quelli europei continentali. Guarda appunto per esempio gli Stati Uniti, abbiamo parlato prima del creazionismo brevemente, dell'intelligent design. Gli Stati Uniti sono un paese dove sicuramente la scienza e la tecnologia sono molto importanti, però allo stesso tempo è anche il paese più creazionista e più fondamentalista di quelli occidentali, tra quelli occidentali, quindi la situazione è un pochino più complicata che semplicemente i due blocchi. Massimo, ha introdotto l'argomento di cui parleremo in questo secondo blocco, cioè l'argomento della religione. Ci abbiamo pensato molto di trattarlo o non trattarlo, perché ovviamente qua in Italia se si parla dell'argomento religioso si rischia di toccare delle sensibilità che sono poi del tutto personali. E allora Massimo, quindi arriviamo alla domanda. Secondo te la religione è un fenomeno del tutto personale, come amano dire gli uomini di fede, oppure la religione in qualche modo interessa la società e ne determina gli sviluppi? Sicuramente entrambe. Chiaramente la religione nel senso di che cosa una persona, un individuo crede per quanto riguarda l'universo, il significato della vita, eccetera, è chiaramente una questione personale, e probabilmente ci sono così tante opinioni diverse sulla religione intesa in quel senso di quanti ce ne siano credenti. Però è anche vero che chiaramente la religione è prima di tutto un fenomeno sociale, sociologico, ha avuto storicamente e ha tuttora delle conseguenze enormi sul funzionamento della società. Quindi il fenomeno della religione è un fenomeno che va discusso apertamente da una parte, cosa che è difficile perché generalmente le persone religiose, non tutte, ma certo, un certo tipo di persone religiose che non ammette neanche la possibilità di discussione, una critica della religione non è ammessa, e non solo va discussa ma va anche studiata. E infatti recentemente la scienza, come diciamo prima, ha cominciato a studiare le ragioni della religione, ha cominciato a studiare per quale motivo si sia originato, come si sia originato. Ci sono addirittura teorie evolutive, per esempio, che cercano di rispondere alla domanda da dove viene fuori questa tendenza degli esseri umani a essere religiosi. E non c'è dubbio che è una tendenza che, se non tutti gli esseri umani, certamente una stramaggioranza degli esseri umani hanno. Non voglio dare l'impressione di credere a una di quelle cose tipo abbiamo il gene della religione. Secondo me non abbiamo il gene della religione, né abbiamo il modulo nel cervello che ci fa pensare, che ci fa credere a Dio. Abbiamo però dei geni e dei moduli nel cervello che ci fanno pensare al mondo in una certa maniera. Per esempio citavo prima questi studi che connettono, diciamo, lo stress e la mancanza di controllo su una situazione con un atteggiamento superstizioso. Lì si tratta di meccanismi fondamentali del cervello umano che, quando ci troviamo sotto posizione di stress, dobbiamo in qualche maniera, ci sentiamo meglio solo se riguadagniamo un certo livello di controllo sulla situazione, anche se questo controllo è illusorio. Ma c'è anche un altro discorso. Per esempio, a un livello molto fondamentale, la religione, specialmente quando chiedi a una persona religiosa: ma perché tu credi nell'esistenza di Dio? Questa domanda è stata posta chiaramente da sociologi e psicologi, e tipicamente una delle prime risposte che viene in mente è perché c'è dell'evidenza, perché c'è l'evidenza nella struttura dell'universo, c'è l'evidenza nella complessità degli organismi viventi. In altri termini, molte persone religiose accettano un argomento di intelligent design. Ma perché? Uno si può chiedere: ma per quale motivo l'intelligent design viene fuori come, diciamo, un ragionamento spontaneo per la maggior parte della gente? Viene fuori perché gli esseri umani, come molti altri animali, sono geneticamente programmati per cercare di identificare dei pattern, per cercare di identificare delle regolarità nell'universo, nel mondo che li circonda. I biologi hanno dimostrato che la tendenza a cercare regolarità, a identificare regolarità nel mondo che ci circonda, in realtà è una cosa che ci avvantaggia, perché è proprio nel notare certe regolarità nel mondo che noi riusciamo poi a controllare, e quindi a controllare certi aspetti del mondo, e riusciamo per esempio a trovare il cibo più facilmente, perché notiamo che ci sono certi tipi di frutti che escono fuori durante certe stagioni, o che certi animali migrano in certe stagioni e non altre, eccetera. Quindi l'idea che la selezione naturale abbia favorito animali, e in particolare in questo caso specie umana, perché erano capaci di notare delle regolarità e quindi di sfruttare delle regolarità nel mondo che li circonda, nell'ambiente che li circonda, mi sembra abbia molto senso. Sfortunatamente, però, uno dei prodotti di questa tendenza a cercare la regolarità è anche a esagerare l'esistenza della regolarità nel mondo che ci circonda. Quindi vediamo anche delle cose, ci sembra di riconoscere dei pattern, delle regolarità nell'universo che in realtà non ci sono, che ci sono delle cose che sono il risultato del caso, e noi ci rifiutiamo di credere che si tratti il risultato di eventi casuali. Peraltro, in un libro tipicamente anglosassone, che è The God Delusion di Richard Dawkins, ci cerca di spiegare proprio il fatto che i diversi tipi di religione siano nati in maniera differente, quindi con diverse dottrine, a seconda del posto dove si sono sviluppate. Quindi dove la terra era più aspra il dio era molto più vendicativo, mentre dove la terra era più semplice da coltivare il dio era più misericordioso. Quindi in realtà la religione è inquadrata come fenomeno sociologico e psicologico. Però in realtà la domanda che ti voglio fare è un'altra, e sto parlando di quello che a me piace chiamare come approccio religioso alla scienza, e spiego quello che sto cercando di dire. Quando si parla di scienza alla gente e si cerca di spiegare proprio che la scienza non ha una risposta certa, anzi, che la scienza è bella proprio perché non ha una risposta certa, ma una risposta in continua evoluzione, questo in qualche modo spiazza le persone, perché si aspettano, esattamente come la religione, che la scienza abbia una risposta certa e definita. Allora, secondo te, come mai la gente si aspetta dalla scienza una risposta certa e non si pone la domanda che proprio la scienza è bella perché si pone domande, non tanto perché ha una risposta? Di nuovo, è una domanda eccellente, che si riconduce però al discorso che facciamo prima riguardo alla connessione tra la superstizione e la necessità di controllare. Come tu probabilmente sai, Francis Bacon, che fu uno dei primi filosofi della scienza e uno dei primi scienziati, diciamo, disse che la conoscenza è potere. La conoscenza è potere significa che se tu sai delle cose, tu capisci delle cose sulla natura, le puoi controllare. L'idea di Bacon era che la scienza ci permette di conoscere come funziona la natura e di conseguenza di controllarla. Però, come giustamente hai detto tu, la natura della conoscenza scientifica è in realtà provvisoria. Le teorie scientifiche cambiano nel tempo, migliorano, nel senso per esempio che le teorie della fisica moderna sono migliori delle teorie della scienza newtoniana, che a loro volta erano migliori delle teorie della scienza galileiana, che a loro volta erano migliori della fisica aristotelica, eccetera, eccetera. Quindi la scienza cambia continuamente, la nostra comprensione della natura migliora, però non è mai definitiva. Se uno vuole essere uno scienziato, uno deve accettare fin dall'inizio quest'idea che i risultati della ricerca scientifica sono provvisori. Purtroppo, come dici tu, la maggior parte della gente però vuole delle risposte definitive, perché è solo con una risposta definitiva che uno può poi decidere cosa fare, che uno guadagna un senso di controllo sulla situazione e quindi può decidere che cosa fare in certe situazioni particolari. La religione dà l'illusione, o la superstizione in generale, danno l'illusione di un controllo definitivo. Ed è quindi per questo, secondo me, questa è una delle tante ragioni per cui la gente è più portata alla superstizione che non alla ricerca scientifica. Ti faccio un esempio. come detto prima, qualche anno fa vivevo in Tennessee, nel sud degli Stati Uniti, dove ci sono queste discussioni continuamente tra creazionisti e biologi evoluzionisti, tra atei e religiosi, eccetera, eccetera. E all'epoca, per qualche tempo, scrivevo un editoriale regolarmente sul giornale locale, in Knoxville, nel Tennessee. E una volta una delle autorità religiose locali scrisse questa lettera inviperita al giornale, in cui disse più o meno questa, è una parafrasi, non mi ricordo esattamente la frase, ma la frase era più o meno questa: io non capisco per quale motivo questi scienziati insistono nel credere in cose che cambiano di giorno in giorno, io preferisco credere in una cosa che non è cambiata negli ultimi 2000 anni, riferendosi chiaramente alla Bibbia. E secondo me questa è la quintessenza del problema. Uno, per veramente capire come funziona la scienza, per capire veramente come funziona un atteggiamento razionale alla comprensione del mondo, purtroppo uno deve anche capire che i risultati del lavoro della mente umana sono infatti provvisori. E per me, come scienziato e come filosofo, non solo questo non è un problema, ma anzi è una cosa positiva, perché vuol dire che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Ogni settimana, quando mi arriva una copia di Nature o Science, li apro perché c'è qualche cosa di nuovo che è saltato fuori, che non sapevamo fino alla settimana scorsa. Ma per la maggior parte della gente, l'atteggiamento appunto di questa figura religiosa a Knoxville è tipico. La gente vuole delle certezze, perché le certezze sono quelle che non provocano ansia. È l'incertezza che provoca ansia. Massimo, così si conclude questa puntata di Caccia al Fotone. Io prima di tutto ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Saluto i nostri radioascoltatori, riascoltatori di Caccia al Fotone e di Radio Città Fujiko, e come al solito vi auguro una buona scienza a tutti. A sabato prossimo.